peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre musicisti che hanno un qualche legame, quantomeno tra di loro. Diciamo che il legame soprattutto è dovuto al rapporto intenso di lavoro e anche di molti anni, di una carriera lunga, di Mira Melford e Marty Erlich. Questi musicisti sono sicuramente musicisti molto attivi e con una attenzione anche a nuove tendenze, a nuove voci che si esprimono sul mondo, soprattutto su tutto il territorio americano, perché poi tra l'altro lavorano sia nell'ambito della West Coast che nell'ambito newyorkese. E un personaggio, cominciando da qualcuno che quantomeno è un giovane, è un personaggio che è stato scoperto o comunque viene valorizzato soprattutto da Mira Melford, è un giovane clarinettista, sax, diciamo musicista completo nell'ambito delle ance e dell'area californiana. Nasce a San Francisco, anche di origini lituane, e tra l'altro questa sua provenienza lascia anche traccia nelle sue composizioni. Si tratta di Steven Lugerner, se così si pronuncia, che è un giovane, ha al suo attivo diverse incisioni, ma sicuramente con musicisti non conosciuti. La maggior parte sono musicisti della West Coast. Poi appunto si presenta con questo lavoro, un lavoro tra l'altro che ha tiratura limitata, quindi un'etichetta, la No Business, che cerca di premiare, di far conoscere musicisti interessanti, importanti, che però appunto non hanno ambizioni di un largo pubblico. Però Lugerner viene sostenuto da una formazione di altissimo livello. Infatti viene accompagnato dalla tromba di Darren Johnson, uno dei trombettisti più interessanti del momento, poi al pianoforte Mira Melford e alla batteria Matt Wilson. Entrambi questi, Matt Wilson è straordinario, è veramente un musicista oltre che batterista di altissimo livello, e sia lui che Mira Melford danno un tessuto e un sostegno importante a questo lavoro, che sono tutte composizioni scritte da Steven Lugerner e sono sicuramente interessanti proprio da un punto di vista compositivo. Sono lavori che in qualche modo disegnano una musicalità nuova, un nuovo modo di strutturare le composizioni nell'ambito jazzistico, senza arrivare a miracoli o musicisti di altissimo livello. Comunque è un personaggio interessante che vale la pena di seguire e di ascoltare. Ascoltiamo tre composizioni di Steven Lugerner, che sono appunto tutte le composizioni presenti in questo lavoro, che è intitolato For We Have Heard. Sono tutte composizioni scritte appunto dallo stesso Steven Lugerner. Thank you. Direi che in questo quartetto guidato da Steven Lugerner si respira un po' un'aria cameristica, se non fosse per la tromba di Darren Johnston, decisamente jazzistica. Gli altri musicisti si muovono su atmosfere che sono abbastanza lontane da quella del jazz tradizionale. E tutto sommato si conferma che i musicisti della West Coast seguono un percorso che parte già dall'inizio anni 50 con il cool e con quello che è stato anche tutto lo sviluppo della third stream e del cool, per poi mantenere questa sorta di via di mezzo anche con un occhio alla musica classica, alla musica contemporanea. E sicuramente Mira Melford e Matt Wilson lavorano con un sostegno perfetto alle sonorità di questo polistrumentista interessante, giovane. Rimanendo su questo ricordo, Steven Lugerner, disco uscito per l'etichetta No Business, inciso recentemente, intitolato For We Have Heard. Passando ad un altro lavoro, Mira Melford recentemente ha inciso un disco per piano solo, un disco intitolato Life Carries Me This Way, e conferma le sue qualità. Una musicista di grosso spessore che riesce a mantenere un'attenzione forte, costante sull'avanguardia, sui nuovi linguaggi e rimane comunque ancorata profondamente in quello che è tutta la tradizione del pianismo jazz e di quello che è stato comunque la storia del pianoforte. Ascoltiamo un paio di queste composizioni. Si sentono sapori che provengono anche da influenze le più diverse, lungo quello che può essere stata la storia del recente piano jazz negli ultimi 30 anni. Thank you. Thank you. Questo era il piano solo di Mira Melford, un lavoro uscito recentemente per la Firehouse 12 Records, ed è intitolato Life Carries My This Way. Un buon lavoro, direi che è una sorta di riassunto di quello che è il pianismo e anche l'intenzione più intima anche della musicalità di Mira Melford. E un altro musicista, appunto, come dicevamo all'inizio, Marty Ehrlich, col quale Mira Melford peraltro ha lavorato in moltissime occasioni. Marty Ehrlich però ha lavorato veramente praticamente con la maggior parte dei musicisti, ovviamente sulla scena americana negli ultimi 40 anni. Già dagli anni 70 ha attraversato tutti gli stili e tutti anche i territori. Lui nasce artisticamente a New Orleans, a St. Louis, ed è uno degli allievi prediletti, una sorta di passaggio di testimone quasi, di Julius Enfield. Marty Ehrlich, per esempio, è anche quello che cura tutte le composizioni di Julius Enfield dopo la morte, poi e cerca comunque sempre di fare progetti per ricordarne il lavoro immenso e straordinario, importante di questo sassofonista. Ma poi passa anche le sue esperienze nell'ACM di Chicago, poi approda naturalmente a New York, ma comunque attraversa e conosce un po' tutti i musicisti dell'avanguardia di tutto il territorio americano. Ha occasioni infinite di lavorare come sideman in moltissime formazioni, partecipa a progetti tra i più importanti di quelli che sono stati la storia, che hanno fatto parte della storia della musica jazz degli ultimi 40 anni. Recentemente è uscito un lavoro che lui giudica il più ambizioso e il più importante della sua carriera. È un lavoro per orchestra. Non è la prima volta che si cimenta per orchestra, l'aveva già fatto nel 2000 con un lavoro non riuscito a pieno, era uscito per l'etichetta Enja, con la quale peraltro Marty Ehrlich ha inciso diversi lavori come leader dei suoi gruppi, delle sue formazioni. Questo recente però intanto esce per l'etichetta New World Records. È importante questa la scelta di questa etichetta, oppure il fatto che venga fatto per questa etichetta il progetto, perché è un po' l'etichetta finanziata dalla Fondazione Rockefeller che ha l'ambizione di pubblicare e di raccogliere le maggiori espressioni della cultura americana, della cultura musicale americana, e quindi sono molte poi le esperienze che sono state testimoniate in questa etichetta prestigiosa e tra l'altro di ottimo livello comunque artistico complessivo. È un lavoro decisamente ambizioso che raccoglie in questo caso tutte composizioni e tutti arrangiamenti di Marty Ehrlich. È la prima volta, perché la precedente aveva visto la collaborazione anche di altri musicisti. E in questo caso è un lavoro tutto suo e collaborano in questo progetto 24 musicisti. È interessante vedere i nomi, perché a parte che sono moltissimi tra i protagonisti della scena musicale, ma attraversano anche generazioni molto diverse tra di loro. Anche citarli tutti quanti diventa improbabile, ma è interessante vedere come, non so, al baritono si può ascoltare Howard Johnson, che è il sax baritono. Howard Johnson, musicista che praticamente ha fatto parte delle varie avanguardie, non solo dagli anni 60 in poi, quindi un anziano musicista, ma poi si trova anche al sax tenore Jason Robinson, che è uno dei giovani talenti più interessanti, più prestigiosi, insomma, che raccoglie maggiormente l'attenzione della critica e del pubblico. Ma poi Andy Lester al contralto, A.J. Allen alla tromba, Ron Orton sempre alla tromba, e anche James Zoller, poi Curtis Falkes al trombone, oltre a Joe Daly, anche questo una tuba di antica esperienza, Ray Anderson, un altro trombone, collaboratore peraltro in molte occasioni con Marty Ehrlich, poi John Clark, ecco, Drew Grass al contrabbasso, alla batteria due batteristi, quindi è una sorta di doppia orchestra, di doppia orchestra di 12 elementi ciascuno, quindi sono due bassisti, due batterie, Brad Jones e Drew Grass al basso e Eric McPherson alla, e Matt Wilson alla batteria, ancora Matt Wilson che ritroviamo per la seconda volta oggi in questo lavoro. E quindi sono moltissimi i nomi che attraversano questa esperienza. A mio avviso il risultato risente di un certo accademismo. Questo è un po' il rischio di operazioni di questo tipo. È un'operazione che mi fa ricordare più il versante di quello che è l'esperienza di Marsalis, della Lincoln Center, della Lincoln Orchestra, più che il Marty Ehrlich legato alle avanguardie o anche al consolidamento di certi linguaggi dell'avanguardia degli anni 80 e 90. Comunque sicuramente un lavoro ragguardevole, sono presente nei brani che compongono questo lavoro, ci sono anche arrangiamenti e composizioni che risalgono a diversi anni fa. Uno di questi lavori peraltro è stato scritto per la New York Jazz Composer Orchestra, che era la formazione guidata e condotta per pochi anni purtroppo da Wayne Horvitz, un'esperienza orchestrale straordinaria che però ha avuto una vita breve e alla quale peraltro ha collaborato anche lo stesso Marty Ehrlich. Ascoltiamo il brano di apertura, che è una sorta di introduzione, poi una parte, una lunga parte, di un'altra delle composizioni, Run Downs and Turn Backs, ma sono due o tre le composizioni piuttosto lunghe, una sorta di suite che accompagnano questo lavoro. Thank you. Quello che abbiamo ascoltato era l'ultimo lavoro di Marty Erlich, un lavoro ambizioso per orchestra, intitolato A Trumpet in the Morning, un disco uscito recentemente, registrato non molto tempo fa, ed è uscito per l'etichetta New World Records. Questo era l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione e anche trovare tutte le indicazioni discografiche nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima! Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.